Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per chi non lo sapesse, che io e Marco siamo stati insieme 8 anni, e di questi 8 anni Marco per 3 anni ha vissuto a casa mia. Quando dico casa mia intendo anche con mia mamma e mio padre, quindi anche a lui è capitato diverse volte di avere delle problemi, incomprensioni o litigi o battibecchi con mia mamma o con mio padre, soprattutto con mia mamma, perché vabbè, mia mamma, chi ci va d'accordo non ci vive sotto lo stesso tetto. Comunque è capitato. Poi noi avevamo all'epoca e abbiamo ancora dei nostri problemi, e quindi Marco spesso si trovava in mezzo a queste nostre discussioni. Però fondamentalmente mia mamma e mio padre l'hanno accolto come un figlio per 3 anni, gli hanno dato la casa a disposizione praticamente, cioè Marco era di famiglia, nel senso a Natale aveva il regalo di Natale, farci un esempio, era trattato come una persona, come un figlio, ok? Perché loro, mia mamma e mio padre, per quanti difetti abbiano, comunque mi hanno sempre lasciato abbastanza libera, nel senso che mia figlia ama questo ragazzo, di conseguenza poi cerco. Questa è l'amara confessione su YouTube di una signora o ragazza, forse non più signora a questo punto, che ha scelto l'amara decisione della vicinanza con i genitori e con i suoceri. Questa è la domanda che vi faccio oggi: geolocalizzate le vostre famiglie d'origine e quanto abitate lontani a questo punto di vista? Sì, perché mi sono reso conto da alcuni indicatori che per me sono fondamentali, che entrano come portanti di pensiero all'interno di questa trasmissione, che oggi c'è una tendenza nel grande discorso generalizzato che si fa sulla famiglia di scegliere casa vicina a quella dei genitori. Vuoi che si sia single, vuoi che si sia soprattutto una famiglia nascente, giovani sposi o sposi comunque che hanno dei figli, c'è qualcuno nell'ambito di questo nucleo familiare che dice: ma cerchiamo casa vicino ai genitori. Quindi vicino ai genitori significa nella stessa città, nello stesso quartiere, addirittura nello stesso palazzo. Quanto comodo, ho trovato un appartamento proprio sopra quello dei nostri genitori, che bello, andiamo a vivere lì. Vorrei capire se statisticamente anche le persone che mi ascoltano hanno fatto questo tipo di scelta. Lo dico per due ragioni, oltre quella che vi ho fatto ascoltare. Una persona molto a me vicino tutti i giorni in questa trasmissione mi ha raccontato che è stato costretto a prendersi casa dalla moglie, proprio nel paese dove vivono i genitori della moglie. Lui magari è contento, dice: forse sì, mi aiuteranno a tenere i figli, mi fanno da babysitter, mi fanno le marmellate, mi portano i biscotti ancora caldi la sera, e se io devo uscire con mia moglie e la figlia dei genitori, sì. Ma qual è il rovescio della medaglia? E non ho voluto assolutamente saperlo. Poi ho davanti a me una discussione in un forum di quelli che ci sono in rete, in cui le donne conversano tra di loro pensando che gli uomini sono fuori dalle loro discussioni, ma i maschietti curiosi e guardoni, la prima cosa che fanno, vanno a vedere proprio questi forum al femminile per capire cosa dicono le donne. E il problema è: casa vicino alla suocera, sì o no? Ecco, si stanno confrontando alcune neosposine se assecondare o no il desiderio dei loro mariti di trovare casa accanto a quella dei suoceri. Quindi la domanda è questa: 800 24 00 24. Primo, qual è il tipo di scelta stata fatta? Genitori di lei o genitori di lui? Secondo, geolocalizzate la coppia di genitori a cui vi siete avvicinati, ditemi quanto siete distanti. Lo fate facilmente sulle mappe di Google, guardate, mettete casa dei genitori, voglio capire quanto siete distanti in ordine di tempo e in ordine di distanza chilometrica. Se si tratta di chilometri, per molti di voi potrebbe trattarsi soltanto di metri. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ciao ragazze, stasera vengono a cena i genitori del mio ragazzo, sono arrivati da Cagliari questa mattina e quindi per cena saremo con loro, abbiamo deciso di portarli a mangiare tipico piacentino. E io volevo approfittarne per farvi vedere il mio outfit di stasera. Questo vestito nero molto semplice con sopra una giacchina sul prugna di Tally Whale. Il vestito è così nero, questa giacchina non so quanto sia costata perché me l'ha regalata mia mamma. Il vestito invece l'ho comprato io da Motivi a gennaio, è la prima volta che lo metto. È un vestito nero molto molto semplice che ha come particolarità questa ragazza qua. Fa un défilé a favore di YouTube per mostrare l'outfit che si è scelto per la cena con i suoceri, con il genitore di lui. Cagliari e Piacenza sono due località abbastanza distanti, quindi probabilmente può questo concedere, perché poi per il resto della vita ce li ha ben lontani. Ma è così per tutti? 800240024, per favore geolocalizzate, anzi sulla mappa Google con il vostro smartphone, l'abitazione dei vostri genitori e suoceri. Fatemi capire quanto abitate lontani o quanto farete per riavvicinarvi. Roberto, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Buongiorno. La mia scelta è stata quella, sono sposato da 17 anni e già in prima battuta, quando mi sono sposato, pur avendo i genitori vicini, i suoceri abbastanza vicini, abbiamo scelto sia per motivi lavorativi che per diciamo tutela della privacy, che comunque va rispettata anche coi genitori o coi suoceri, di scegliere un'abitazione che rimanesse a debita distanza dai genitori e dai suoceri, perché così abbiamo salvaguardato la nostra, tutelato la nostra. Allora diciamo che l'equazione migliore, come dice lei, è un triangolo rettangolo al cui vertice si ha la famiglia nuova, cioè lei e sua moglie, e a equa distanza, però distanza notevole, sia i genitori che i suoceri. Diciamo che per me sono stati circa 5 chilometri che hanno reso la felicità di tutti. Ma 5 chilometri sono vicinissimi, no? Scusi, stiamo parlando. Sì. Li trovo vicinissimi 5 chilometri, allora la scelti vicino. Sì, però ti permettono di vivere. Io abito a Como e mi permettono di vedere i miei familiari quando essere diciamo visitato quando vogliamo, senza improvvisate o gente che improvvisamente, come è capitato con alcuni amici, che si trovano a vivere a 100 metri, a 50 metri, ho un amico carissimo che vive addirittura nella stessa palazzina, con i genitori che a ogni piè sospinto si permettono di entrare, violando la privacy del fatto semplicemente posso arrivare stanco, farmi una doccia, essere... Ce l'ha sempre per casa a rompere le scatole. No, però esatto. Guardi, Roberto, lei mi sta confermando la nostra intuizione, ma allo stesso tempo sorprendendo. Io pensavo che lei, quando dicesse a un'equa distanza, pensavo almeno 500 chilometri, che è il minimo per avere i genitori fuori. Lei dice 5 chilometri, che diciamo che un umarel padre in gamba se li fa in bicicletta in due minuti, nel senso ve li trovate sempre addosso. 5 chilometri già lo considera una distanza equa. Per me è vicinissimo 5 chilometri. Per me invece no, è stata la giusta, anche perché poi la famiglia comunque si ha necessità, avendo una figlia, unica figlia, di avere un supporto, avere anche una possibilità di essere prelevata o portata in breve. Provi, scusi Roberto, sono i suoi suoceri o sono i suoi genitori questi a 5 chilometri? Entrambe. Ah, quindi è un triangolo, avete fatto il triangolo rettangolo. Sì. In cui voi ci siete al vertice, diciamo agli altri due angoli, cioè i genitori di lei e di lui, 5 chilometri esatto. È la media. Quindi esatto. Diciamo che se volessi fare una grande rimpatriata di famiglia, che ne so, tutti a cena da uno, tutti a cena da un altro, massimo la tratta sarebbe di 10 chilometri, una cosa del genere. Assolutamente sì. No, anzi, tagliando bisogna fare per 3-14, bisogna capire com'è il raggio. Ma comunque ho capito, siete comunque vicinissimi, Roberto. Marco, buongiorno. Marco. Buongiorno. Vediamo lei, ha geolocalizzato la famiglia di origine? Allora, la mia famiglia di origine sono entrambi a 25 chilometri. 25, io sto facendo, voglio fare una media poi alla fine. 25 chilometri entrambi. 25 chilometri entrambi. Io a me non mi è mai interessato vivere vicino nei suoceri e nei genitori, perché ho sempre pensato di riuscire a cavarmela con la mia compagna. Adesso abbiamo avuto una bambina, abbiamo avuto una gravidanza difficile e praticamente siamo dovuti andare a vivere dai genitori di lei perché l'aiutassero, essendo io sempre fuori al lavoro. Quindi vi siete riavvicinati, adesso quanto no, siete? No, io sono sempre, poi siamo tornati a casa nostra, ma perché mia moglie aveva bisogno di assistenza. Ah, quindi ha mandato la moglie a casa madre per un periodo perché aveva bisogno. Esatto, adesso abbiamo avuto la bambina, ci stiamo rendendo conto che sarebbe stato più semplice sia in ambito economico sta più vicini. Che in ambito stare più vicino, perché ti posso dare una mano. E quindi cosa fate? Vi avvicinerete? No, non penso, perché la situazione economica adesso non è molto facile vendere una casa e comprarne un'altra. Però potendo, diciamo, potendo sarebbe una scelta saggia. Avessi potuto, mi sarei avvicinato uno dei genitori, perché è molto utile a mio parere, cioè mi ricredo adesso come adesso rispetto al pensiero che ho avuto, è molto utile avere una mamma vicina. Quindi se lei potesse, sia del lato economico che del lato affettivo, certo, ma vuole mettere affettivo di dare una mano, se lei pensa che un asilo nido ti costa 500 euro, c'è la mamma lì che non fa niente, pensionato, è giusto, pensione, è che deve schiattare ancora di più. Senta una cosa, ma io per lei, se dovessi fare un calcolo matematico, devo fare 25 e 0, una media fra 25 e 0, perché sua moglie praticamente in parte è ancora gravante sulla famiglia d'origine, o è già ritornata? No, è tornata. È nata la bambina. 25. Però nel cuore c'è la speranza, se potesse. E qual è la secondo lei? Di mia moglie, sì. Ecco, sua moglie quale vorrebbe essere, che fosse la distanza giusta verso i genitori? Promiscui. Potesse anche nello stesso palazzo. Stesso palazzo o stesso appartamento? No, stesso appartamento no. Stesso palazzo. Comprare una casa molto grande, una villa grande, tipo tutti famiglia dentro. Patriarcale, sarebbe meglio. Nello stesso appartamento piccolo no. Comunque, intanto sono contento, ci fa piacere che il nostro studio statistico Chiappini Intonti Nicoletti ha ipotizzato un algoritmo funzionante, capito? Nella geolocalizzazione statistica che abbiamo fatto con due telefonate, c'è un desiderio di fondo di stare comunque vicini e una media distanza che ancora si aggira sui 15 chilometri, però con nel cuore la volontà di essere ancora più vicini. Nanni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Cominciamo con la cifra. Ha geolocalizzato le famiglie di origine? Beh, i miei stanno a 250 chilometri. 250, ecco, lei fa sfondare. E poi invece quelli di sua moglie? A 800 metri. Eccoci, ci siamo. Ecco, vediamo un po'. La sua è una scelta felice di avere 800 metri i suoceri? Ma per me non ci sono mai problemi. Non ho avuto mai nessun tipo di invasione, assolutamente. No, ma io guardi, non è che ho un pregiudizio, sono un freddo statistico in base solamente sulla algida consistenza dei numeri. Però sto vedendo che tutto sommato lei si è spostato alla famiglia d'origine, ma voi vivete 800 metri da una famiglia di genitori. Qual è, diciamo, la transumanza quotidiana tra voi e questa casa che sta a 800 metri? Quante volte vi incrociate, quante volte loro vengono da voi e quante volte voi andate da loro? Ma diciamo che quando uno ha una bambina piccola, c'è da portarla all'asilo, da andarla a prendere. E ci pensano loro. Sì, perché è inevitabile. È spesso. E pranzo e cena? Pranzo e cena? Sempre ognuno a casa sua o qualche volta vi unite? Ogni tanto ci si vede. La spesa chi la fa? Ognun per sé. Ognun per sé. No, quindi soltanto la bambina, diciamo, è il tramite importante. No, ma poi c'è un rapporto splendido, perciò non... anche perché forse io sono di una generazione che è un po' più de amicisiana rispetto sì, a... Sì, no, ma figura, posso capire benissimo. I figli sono sempre pezzi cuore. Senta una cosa, quanto tempo... Mi date anche un altro dato statistico, mi viene richiesto... Dai nostri laboratori, oltre la distanza geolocalizzata, il tempo di percorrenza sulla mappa Google, vedete, c'è anche il tempo di percorrenza sia a piedi che in automobile. Quanto mette a piedi sua madre o suo padre per venire da lei per una chiamata di soccorso di necessità? Lei deve uscire, oddio, a chi do i bambini? Chiama, in quanto tempo intervengono? In 5-10 minuti. 5-10 minuti di intervento. La ringrazio. Maria, buongiorno. Sono Marta, veramente. Ah, Marta, scusi, Marta. Beh, Marta e Maria erano sorelle, stanno sempre insieme. Allora. Sono Marta, i miei genitori abitano 3 piani più sopra di me, nello stesso palazzo. Ah, quindi è condominiale la condivisione. Esatto, è condominiale, ma non li vedo mai. Chi sta sopra, lei o i genitori? Io sto sotto, quindi loro quando entrano dal portone passano davanti alla mia porta. E se vogliono bussano? Bussano, ma non bussano mai. Allora, diciamo, lei ha 3 rampe di scale di distanza. Esatto. Quindi saranno esatto. 30 metri, no? Dir tanto. Sì, esatto. Ecco, quali sono i tempi di intervento quando è necessario che intervenga? Un minuto. Neanche, però le dico... un minuto, se io penso che sono... Scusi, sempre forse i numeri... Per 800 metri sono 5 minuti, per 30 metri un minuto sono un po' lenti, dovrebbero accelerarla. Saranno 30 secondi, 20 30 secondi. Non l'ho mai calcolato. In 30 secondi intervengono. Sì, anche io intervengo per loro, però ripeto, sono persone molto riservate che non hanno mai interferito nella mia vita coniugale quando c'era. Ma senta, posso introdurre un altro dato matematico, mi interessa. Certo. Il livello di soddisfazione suo marito di questa promiscuità di intervento in 30 secondi. È un ex marito, quindi non... Se ne è scappato via. Sì, l'ho mandato via io. Beh, ma... mandato via, però scusi, c'è un esito comunque di questa promiscuità. Uno dei ma due non ha retto. No. No, perché non ha retto all'impatto. Le ripeto che i miei genitori non si vedono in casa mia, cioè stanno a casa loro, non sono per nulla invadenti. Però 30 secondi di intervento, guardi che sono tanti, tanto pochi. Ma è successo veramente pochissime volte. Ma non si domanda perché suo marito non sia più lì? No, non ma c'entra nulla questa cosa. No, non c'entra nulla. Vabbè, niente, non voglio entrare nella sua cosa. Senta, e adesso lei come gestisce la sua ritrovata condizione di donna single con i genitori a 30 secondi? Benissimo, perché avendo un figlio adolescente, se voglio uscire ho bisogno della mia privacy, glielo spedisco di sopra. Quindi dice, scusa, viene l'amico di mamma, vai un attimo dai nonni. Esatto, per esempio. E quali sono i tempi di permanenza? No, mi scusi, potrà sembrarle invasivo, ma la ricerca richiede... Non è così brutale la cosa, ovviamente. Però... Sì, però gli dice, guarda, stasera la mamma c'ha una cena, per favore esatto, vai dai nonni. Esatto. Ma lui si porta il pigiamino oppure a una certa ora viene giù? No, a una certa ora viene giù perché poi ormai è grandicello anche lui e quindi ci capiamo. Ma mettete un segnale sulla porta, lei mette tipo, non so, una sciarpa legata alla... come succede nei telefilm di studenti. No, questo vabbè, no. Comunque vive felicemente, contento. Diciamo massimo vantaggio e minimo svantaggio. Minimo svantaggio. 800 24 00 24. Datemi dei dati certi e matematici. Ripeto, geolocalizzazione dell'abitazione dei genitori e dei suoceri, tempo di percorrenza sia in automobile che a piedi e livello di soddisfazione della controparte, quella che non ha i genitori vicini ma li considera dei suoceri. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. .800 24 00 24, stiamo facendo questo esperimento scientifico in diretta. Finora i dati che stanno elaborando ci danno una risposta di una distanza media di 7,5 km. È difficile però stabilire i tempi di percorrenza nell'avvicinamento immediato dei genitori ai figli, perché dobbiamo collocare questa distanza o in città o in provincia. Facciamo in un terreno medio, perché se dovesse essere a Roma 7 chilometri possono volerci anche mezz'ora, anche 40 minuti in momento di traffico. Se è un posto di campagna, di provincia, sono appunto 3, 4, 5 minuti. Però diciamo 7,5 km e facciamo una media, ma fatta in questo momento in maniera molto empirica, un quarto d'ora di distanza. Diciamo che finora le persone che abbiamo sentito hanno la certezza che a un quarto d'ora i genitori possono intervenire giorno e notte. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletti. Allora io chiamo da... in questo momento mi trovo a Padova, ma io abito a Rovigo. Da casa a casa sono 40 minuti. Scusi, no, per quant'è da casa a casa? 40 minuti? 46 chilometri. Ah, 46 chilometri, aggiungo, 46 chilometri. In 40 minuti si arriva, con l'autostrada si arriva, ecco. Volevo dire che io adesso i ragazzi, che sarebbe mia figlia e suo marito, hanno organizzato la settimana con un lunedì e martedì la consuocera, mercoledì mia moglie, giovedì vengo io, venerdì e sabato provvedono loro. Quindi è quasi militare la cosa, se vogliamo. Ah beh sì, c'è una tabella di marcia molto stretta. Sì, esatto, sì. Però la mia è un palinsesto familiare, che permette che comunque... Esatto. Allora, a lei quando tocca? A me tocca oggi, io sono davanti alla scuola in questo momento, sto aspettando mio nipote che esca da scuola. Ma che giorno della settimana? Alle 3:30 vado a prendere il nipotino al nido alle 3:30. E le danno il cambio? Il giorno è il giovedì. E le danno il cambio gli altri due consuoceri, allora, gli altri giorni? No, il cambio, giorno per giorno, non è un cambio. Io vado via stasera, dopo insomma, lunedì e martedì viene la consuocera. Beh, il cambio della guardia, esattamente così. Sì, però, sì, in un certo senso è il cambio della guardia. Senta, invece il giorno di riposo quando è per lei? E mia è tutto il resto della settimana, io vado solo giovedì, e su chiamata in caso di malattie dei bambini, eccetera, ecco, eccetera. Però sono in pensione, per cui. Ma che tipo di livello di servizio lei deve permettere, cioè deve garantire? Su chiamata, entro quanto tempo deve essere, diciamo, operativo? Lei? Il tempo che ci impiego da arrivare a Rovigo a Padova, 40 minuti, 35. Ma se la chiamano che è in pigiama, deve vestirsi, prepararsi, accade mai. Vabbè, sì, certo, sì. Ma ha tutto già pronto come pompieri su una sedia vicino all'uscita? No, quello proprio. Ma però, no, diciamo, in 40 minuti interviene, quindi siamo nella media. Grazie. Sì, Gabriella, sì. Buongiorno, Gabriella. Buongiorno. Gabriella. Buongiorno. Sì. Dunque, io abito invece 400 chilometri di distanza, sì, da mia madre. Io sono in provincia di Udine, mia madre è in provincia di Milano. E i genitori di suo marito? No, i genitori di mio marito non ci sono, sono deceduti, sono rimasta vedova e sono sola sul territorio. E quindi questa è la dimostrazione che comunque ce la si può fare. Quando mi sono trasferita qui, comunque l'appoggio dei suoceri non l'avevamo perché erano già venuti a mancare, e ci siamo organizzati in maniera tale da poter gestire comunque quando è arrivato nostro figlio anche per conto nostro. Quindi diciamo lei, diciamo, è l'esempio diciamo che conferma la media nella sua differenza. 400 chilometri sempre autonoma, quindi non c'era nemmeno la necessità di prevedere dei tempi di chiamata, vi vedevate soltanto nelle occasioni importanti. Sì, certo, questo, cioè, non nego comunque di usufruire del supporto quando necessita di una rete di amicizie. No, perché... genitori e amicizie non contano, genitori, bisogna sapere, è il cordone ombelicale indissolubile che questa mattina vogliamo misurare. Comunque grazie Gabriella. Gabriella è un esempio che è totalmente antitetico rispetto al trend che noi stiamo identificando. 400 chilometri, ognuno a casa sua, autonomia totale. Romano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. L'ha fatto il conto? Sì, beh, veloce. Allora. Dunque, casa dei miei genitori sono 5 metri, cortile interno, mentre quella dei miei suoceri sono 10-11 chilometri. Quindi, va bene, di 5 metri e 11 chilometri. Quindi, diciamo, vediamo i tempi di risposta. Quelli a 5 metri, in quanto tempo intervengono su necessità, su chiamata improvvisa? Istantaneo. Da parte mia 15 secondi, perché sono giovani, i miei genitori ci impiegano un po' di più perché la velocità non è la mia. E quelli che stanno a 5 chilometri, quanto tempo ci mettono su chiamata d'urgenza a intervenire? Sono a 11, quelli purtroppo non, mi è rimasta la suocera da sola, vedova, e lei non si sposta, per cui... È un peso morto però quella, scusi, non serve più a niente a questo punto, è un onere soltanto per lei. No, è una gioia averla, tant'è vero che in questo momento che ho il padre ricoverato in ospedale... gli lascia i bambini? No, la vengo a prendere, la porto in casa e rimane con noi. Allora facciamo un altro conto. Quanto le costa in termini di tempo, diciamo, l'acquisizione della suocera e la trasformazione nel ruolo di babysitter? Più o meno, lei adesso ha bisogno della suocera. Quanto tempo ci vuole a darla a prenderle, confezionarla, rimetterla in macchina e portarla a casa? La avvisiamo un po' prima, lei si prepara, il tempo del trasporto che è un quarto d'ora andare, un quarto d'ora tornare, abbiamo risolto il problema. Comunque operativa in un quarto d'ora. Sì. Operativa in un quarto. E quando la deve anche riaccompagnare però, sì. Vabbè, certamente, e allo stesso modo impieghiamo lo stesso tempo. Comunque lei in un quarto d'ora, diciamo, ha una suocera ancora operativa, questo è importante capirlo. Miriam, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Io abito a Bari, mia madre abita a Lecce. Siamo più o meno a 180 chilometri di distanza. È importante inquadrare la cosa anche dal punto di vista dell'attività svolta. Certo. Cominciamo, 180 chilometri, diciamo, i tempi di intervento sono abbastanza lunghi a questo punto. Lei non può chiamare, però se chiama la mattina sua madre, metta per una necessità del pomeriggio, li fa questi 180 chilometri? Sì. La volta che è successo, l'ho chiamata la mattina alle 6:30 e lei alle 8 era già a casa per soccorrerci. Quindi due ore di tempo per intervenire. Interviene. Una buona media, veloce. Ma viene solo o viene con il marito? Ancora... No, purtroppo papà non c'è più. Quindi lei... è autonoma al punto tale. È in pensione. Fortunata. È un'insegnante in pensione. È molto efficiente. È molto efficiente. Apriamo una parentesi però. Quando viene, anche se il suo aiuto è prezioso e io la ringrazio sempre, però litighiamo furiosamente. Però cosa pretende? Le scuse, lei la chiama alle 6 di mattina. In due ore e mezzo percorre un pezzo d'autostrada che a quell'ora è abbastanza trafficato, immagino. Bari-Lecce, mi sembra aver capito. La trova sotto casa, quindi probabilmente avrà sempre una valigia d'emergenza pronta, la macchina sempre con il pieno, un minimo di genere di conforto sempre pronto in frigo. Lei si impacchetta, prende parte, nemmeno una volante alla polizia è così veloce. In lei quel è velocissima, lo sarebbe in qualunque circostanza, però il litigio furioso non è scatenato dal fatto che mi hai avvisato all'ultimo momento. Questo non è questo fa parte, mai. Fa parte della sua missione. Lei entra in casa e trova una casa non perfetta. E questo è il motivo. Ma allora scusi, a me viene a pensare che la velocità di intervento di sua suocera sia alimentata dal piacere sottile poi di romperle le palle su quanto lei non sia brava a gestire la casa. Sì, anche a me. No, mia madre. La madre. Ma la madre mi ha educata, diciamo, rispettando il principio della Barbie. Tu devi essere sempre perfetta, avere una casa perfetta, eccetera, eccetera. Una volta raggiunta la maggiore età e la consapevolezza, la Barbie è stata buttata via dalla finestra, per cui non ho l'obbligo né di essere perfetta né di avere una casa perfetta, mentre ho l'obbligo di godermi la vita facendo l'imprenditrice, godendomi i figli, il marito. Però guardi, non è che si può avere la botte piena e la mamma ubriaca. Così l'abituata e così sarà per tutta la vita. Sarà per tutta la vita così. Vabbè. Per cui dovendo fare un bilancio, dico, forse la distanza è troppa. In che senso? La vorrebbe più vicina a questo punto? La vorrei più vicina. E perché non trova una casettina vicina? Scusi, però... non lascerebbe mai la sua bellissima casa in provincia di Lecce per venire a Bari. In effetti, oddio, stare a Lecce, stare a Bari, non se la prendono i baresi, si vive più tranquillamente a Lecce, si sta bene. Si vive tranquillamente, ma comunque è radicata. E lei non penserebbe di avvicinarsi? No, lei non ha attività salentine, no? Lei deve rimanere a Bari. Io amo la mia attività a Bari e comunque, pur essendo una leccese, amo Bari, amo profondamente questa città. Ma al di là di questo, Gianluca, soffermiamoci un attimo su una considerazione. Facendo l'imprenditrice, quindi non potendomi prendere permessi, e tutte le imprenditrici o tutte le partite IVA, i liberi professionisti, già durante la gravidanza hanno c'è la prima differenza notevole. Lavoriamo fino a... Adesso non mi interessa, scusi, non è questo il problema. Sì, ho capito. No, però questo lo devi considerare. Allora, poteva fare una domanda al catasto, cioè pro e contro, è chiaro. No, è comodo in un paese in cui non ci sono servizi per le famiglie, è comodissimo avere... Lei parla con una persona che non si è mai preso un giorno di malattia dal primo giorno che lavora, anno 1983, perché non me lo sono potuto mai permettere. Non ha partorito, non ha allattato e... Lo so, ancora non me l'ha consentito la natura. Non gliel'ha consentito la natura. Che posso farci? Non è colpa mia se non nasce un... allatta ha un grande sostegno da parte delle famiglie. Ma è quello che sto dimostrando stamattina. Scusi, lo sto dimostrando stamattina. Lei dimostra. Lei è un esempio importante. Dimostra un'imprenditrice, quindi una donna evoluta dal punto di vista culturale e dello smarcamento dai modelli tradizionali, pur vivendo in una regione in cui è fortemente radicato il rapporto di sudditanza eterna fra genitori e figli, soprattutto fra madre e figlie, nonostante che sia a 180 chilometri, ha una possibilità di intervento immediata, comprensibilmente alla distanza, di due ore e mezzo. La madre è pronta lì, viene, l'aiuta e naturalmente poi la massacra, come è giusto che faccia. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Rispetto al calcolo che avevo fatto nella precedente porzione di programma, si stanno un po' sballando le cifre, perché abbiamo un 180 chilometri che, devo dire, allunga i tempi, però i tempi di reazione immediata, con chiamata alle 6 di mattina e capacità di intervenire sul posto alle 8 e mezzo da parte di una madre automunita che da Lecce va a Bari, devo dire, conferma comunque il fatto che comunque anche quando sono abbastanza lontani, mediamente lontani, la capacità di pronto intervento è immediata. Thomas, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è la prima volta che chiamo. E io abbasso decisamente la media, perché io ce li ho a entrambi i suoceri e dei genitori in linea d'aria a 3 metri, nel senso che io abito al piano terra e loro al piano primo. Quindi diciamo che i ricercatori lo chiamano il modello promiscuo. Ognuno ha il suo appartamento, ognuno ha la sua indipendenza, loro per entrare in casa mia bussano e suonano, io devo però hanno le chiavi, però hanno le chiavi. Però hanno le chiavi. E se vogliono entrano. Sì, devo dire di sì, è il piccolo prezzo da pagare per averli così vicini, che adesso ancora di più che ho due bimbi piccoli sono davvero molto molto pratici, molto comodi. E in più c'ho anche la zia sopra, mia sorella, quindi abitiamo tutti e quattro nello stesso fabbricato. La zia Zitella, nel senso che rimarrà sempre... No, si è sposata e adesso ha avuto un bimbo, che saluto, ciao Mattia. Ma scusi, però è un peso la zia, non è un aiuto, c'ha il bimbo. Ma lei ha aiutato prima e adesso magari l'ha aiutato. Ma adesso, scusi, adesso toccherà lei occuparsi del nipotino della zia. No, c'ho la mamma, c'ho il papà. Ah, c'è sempre la mamma, per fortuna. Io ho i suoceri sopra, i miei genitori sopra, quindi insomma... Quindi lei ha quattro persone a disposizione? Beh, è uno staff di servitù perfetto, sì, scusi. Devo dire di sì. Devo dire e come si organizzano i turni di intervento? Chi c'è. Cioè lei chiama comunque, fa una chiamata e loro si organizzano i turni? Sì, diciamo che forse soprattutto i miei suoceri, avendo un'unica figlia che è mia moglie, sono molto più disponibili. Più attivi, certo. Sì, e poi sono anche un po' più giovani, quindi... Ma lei sicuramente stabilirà, per metterli sotto pressione, dei livelli di competizione fra loro, dicendo hai visto gli altri sono venuti giù in 50 secondi, voi avete messo un minuto e mezzo. No, così sono molto bravi, molto diligenti, ci aiutano molto, quindi... Però vedo un pericolo nella zia che ha figliato, perché adesso li porterà via un po' di tempo. C'è questo rischio lo prenderemo. È un problema. Senta, è utile anche, diciamo, per pranzo e cena, nel senso, se lei volesse non cucinare, lei e sua moglie, sicuramente è come avere due ristoranti a portata di mano. A disposizione. Io quando ho fame, se non mi va bene quello che mi dà mia moglie, vado dai suoceri, da mia mamma. E se non le va bene, va dagli altri. Esatto. Ha tre soluzioni, diciamo. Sì. Devo un menù triplo. Mi sembra questa è la situazione ottimale. Devo dire che questa è la situazione ottimale. Grazie. Alessandra. Ciao Gianluca. Allora, io abito a Monopoli, sì. In città, sì. E ho due bambini piccoli. Uno di 8 mesi, l'altro di 4 anni. Ha geolocalizzato i genitori? Quanto sono distanti? Allora, io ho solo mia madre, che mi può aiutare, che abita in una villa in campagna, bellissima così, è circa 10 chilometri. Allora, quando è nato il bambino, io ho tentato anche di avvicinarmi. Eh sì, 10 chilometri sono tantissimi in campagna. Ho tentato di avvicinarmi. Ma... Cioè, ci vorranno almeno 7-8 minuti, no, più, 10 minuti, quanto ci vuole? Vabbè, tutto è relativo, no? Dipende appunto. Ecco, qual è allora, mi scusi, i tempi di intervento di sua madre? I tempi di intervento di mia madre sono, a seconda degli orari, chiaramente, perché se la chiamo verso l'ora di pranzo non è disponibile, quanto deve cucinare per mio padre. Infatti quando c'è il bambino malato c'è un po' il panico, no? Però diciamo si riesce a tamponare con Ma mi dica una media di tempo, quanto ci mette a venire? No, di media una mezz'ora per arrivare. Quindi però... su chiamata in mezz'ora si rende disponibile e attiva. Eccetera. Scusa, è una buona media mezz'ora, considerato i tempi di preparazione. Sì. Però devi considerare che io ho tentato di avvicinarmi, prevedendo tutto questo, di vivere vicino a loro, c'era questa possibilità, ma non si capisce il motivo. L'ha detto lei, c'è una villa bellissima, perché devi venire a abitare vicino a lei? O loro venire vicino a me, o io vicino a loro, niente, alla fine si è rimasti a distanza, preferiscono fare questi 10 km. Per lei qual era l'optimum? Quali erano i tempi di intervento? No, io sono sempre per, come il signore che ha chiamato prima, cioè vivere tutti... nello stesso chilometro zero, diciamo chilometro zero deve essere. Un condominio, cioè tutti assieme. La villa in campagna invece di questi nipotini, perché ce ne sono anche altri. Ma scusi, i nipotini stanno meglio nella villa in campagna che nell'appartamento. Cioè, no, quello sarebbe chiaro l'ideale. Non vi ci vogliono però loro tutti nella villa in campagna. Ma non si sa, insomma, comunque ci sono vari problemi. Però io ti volevo dire una cosa, magari può essere uno spunto per un'altra puntata. Io penso che il problema non sia tanto la geolocalizzazione, sicuramente la distanza, ma il fatto che siccome facciamo figli ormai troppo tardi, io ne ho fatti due, vabbè, a 40 anni, ma c'ho delle amiche che li stanno facendo a 44, 45. Lo so. Cioè, il problema è che i nonni sono troppo vecchi, cioè, ormai... siete vecchie voi, ci credo che i nonni sono vecchi, fateli prima, che vuol dire... Penso che io infatti diffondo questo messaggio, fateli prima, perché i nonni poi sono troppo vecchi anche per tenerli. È un problema, perché dopo non gli danno problemi anche per la patente. Lei perché pensi che questi 10 chilometri, esatto, quando non potranno più guidare, mica possono venire con la macchinetta elettrica. Infatti io non li mando più i miei bambini insieme. Anche perché è pericoloso, è pericoloso. Esattamente. Cioè, se si schiantano da soli è un problema, quei bambini dentro dispiace. Va bene, grazie. Franco, buongiorno. Franco. Buongiorno, sono Nicoletti. Io sono Franco, sono... un nonno, 70 anni, vivo in Brianza, sì, e in una casa villa, in una villotta, no? Dove io sono solo, tra l'altro, vedovo, e ho la mia famiglia, anche se sono da solo, no? Sì. Ma i miei due figli e le mie due nuore e i miei due nipoti. Quanto stanno di distanza? Io abito al piano di sopra, abito in una casa, e loro abitano sotto, però ognuno di noi, ognuno dei nostri appartamenti, diciamo così, sì, fatti in questa villa, ha un suo ingresso particolare, un suo ingresso riservato, e in modo che io non so quando i miei figli vanno e vengono, e anche loro non sanno quando e vengono. Beh, oddio, basta affacciarsi alla finestra. Sì, però io volevo solamente dire che in casa mia entro io e basta, nella casa dei miei figli entrano i miei figli e le nuore e basta. È chiaro, lei mi sta dando quell'interferenza, quella è logico, Franco, lo stai dicendo. Lei mi sta dando un quadro di chilometro zero con rispetto delle reciproche entrate. Perché chilometro zero, nella percezione banalmente comune, è tutti nella stessa casa. Gian Domenico, chiudiamo con Gian Domenico. Buongiorno, io sono un medico di Cusano Milanino e abito però da 10 anni in Puglia e ho scelto di venire in Puglia per questioni affettive. Abbiamo pochissimo tempo, devi dirmi la distanza. Niente, i miei sono chilometro zero, a Milano, io abito a Grottaglie e ho i miei suoceri. Quindi non c'è possibilità di intervento immediato, o dei sì? I miei genitori no, dei suoceri? Miei suoceri sono giovani, lavorano entrambi. Tempi di intervento. Per le urgenze ci sono, ma abbiamo deciso di essere Sì, ma molto quando serve, autonomi. Quando serve, in quanto intervengono, quanto tempo? Devo chiudere la statistica. Bisogna un po' organizzarsi, comunque entro la giornata sì. Beh, entro la giornata, guardi, non è efficiente, mi dispiace, è un rapporto non efficiente, perché stando nella stessa città, entro la giornata è come se non ci fossero, non servono a niente. Mi dispiace, era anche Davide, però devo dire, se posso fare una statistica, la statistica che è 22,6 chilometri, la distanza media che abbiamo ragionato è di 22 chilometri, però con molti casi di chilometro zero, cioè genitori, figli e suoceri, tutti nello stesso appartamento. Abbiamo concluso questa indagine scientifica. Grazie Intonti, grazie Chiappini, che è lo staff che mi ha aiutato.